Giusti, Genosa, Tony Loco, eretici. Cosciente dei miei mezzi, prendo il via per lasciare un'impronta. Validi motivi per cui la speranza non tramonta in questa vita che nulla ti sconta. Ad ogni accusa devi sempre avere una risposta pronta. In un mondo dove conta solo arrivare primi, accoppiando schemi sleali a percorsi clandestini. Sporchi metodi utilizzati da mille strozzini che col cervello sono rimasti a quando erano bambini. Delle mie cose mi privi dopo che ho sudato tanto, tutto mantenendo vivi la mia forte e il mio talento, ignorando i primitivi commenti e pareri di quelli che se certo non scrivi. Ciò che loro non va di ascoltare nei cd non tiri, non vendo, sono solo tanti soldi che spendo. Grazie per avermelo spiegato, ma non m'arrendo in quanto sono, non so duro e dal mio concepimento come MC lavoro se mi chiedi ancora perché faccio ste storie se non viene niente a me. Io ti rispondo che l'unica cosa che so è che mi ci metterò fin quando non morirò. Ciò che vorrò ti dirò, se c'è speranza lo sai che non mi fermo mai. Storie che vivo tradotte in basi testi a freestyle, perché motivi ne ho più dell'unico che tu, quello di continuare ad infamare la mia crew. Ennesimo processo per me, da quando mi ci sono messo il meccanismo che ruota rimane sempre lo stesso, mentre io a tua insaputa mi evolvo. Vivo le storie senza far stare, le trasporto in rima sul foglio. Sarò pieno d'orgoglio, ma in fondo è solo il giusto spazio che mi spetta, che con tutta la mia forza cerco e voglio. Tra qualche scelta giusta e qualche sbaglio lotto per uscire da situazioni pesanti in cui mi incaglio. Lentamente sto apprendendo, imparando a selezionare le persone che dovranno starmi accanto. Lo faccio apprezzando ogni sforzo che hanno fatto quei pochi che quando ero stanco mi ha sopportato, standomi a fianco. Per chi invece mi è contro, totale indifferenza, l'arma migliore per chi ha carenza di intelligenza. Ti dico pensa prima di aprire la bocca e dir cazzate, infatti sono l'unica cosa per ammutolire certe. Mi chiedi ancora perché faccio ste storie se non viene niente a me. Io ti rispondo che l'unica cosa che so è che mi ci metterò fin quando non morirò. Ciò che vorrò ti dirò, se c'è speranza lo sai che non mi fermo mai. Storie che vivo tradotte in basi testi a freestyle, perché motivi ne ho più dell'unico che tu, quello di continuare ad infamare la mia crew. Traggo dal vero e non faccio mistero, non nascondo né quello in cui credo né quello in cui spero. Se attraverso un brutto periodo lo tingo di nero, di azzurro quando il cielo per me diventa sereno. Frasi che racchiudo la realtà dentro la quale vivo, ogni momento sia esso positivo oppure negativo. Trascrivo in rima qualsiasi sensazione, emozione, senza necessità di mettere in azione finzione. Sorvo lo sogno in questione, c'è chi mi dà del minchione, ma quando entro in prestazione si nota dall'esplosione. Si allena questo campione, fisso non fa la cover, ma manda in onda programmi di propria ideazione. Se tu non sei d'accordo a me non importa, questo è l'unico modo con cui la mia vita do una svolta. Almeno in pace con me stesso resto fin quando un'esperienza vissuta si tramuterà di fisso. Mi chiedi ancora testo. Perché faccio ste storie se non viene niente a me. Io ti rispondo che l'unica cosa che so è che mi ci metterò fin quando non morirò. Ciò che vorrò ti dirò, se c'è speranza lo sai che non mi fermo mai. Storie che vivo tradotte in basi testi a freestyle, perché motivi ne ho più dell'unico che tu, quello di continuare ad infamare la mia crew. Mi chiedi ancora perché faccio ste storie se non viene niente a me. Io ti rispondo che l'unica cosa che so è che mi ci metterò fin quando non morirò. Ciò che vorrò ti dirò, se c'è speranza lo sai che non mi fermo mai. Storie che vivo tradotte in basi testi a freestyle, perché motivi ne ho più dell'unico che tu, quello di continuare ad infamare la mia crew.